Vemagi a vitu e tutto troppo male. Non riusciamo più a vedere. Siamo intrappolati così perché abbiamo fatto errori e creduto in strane storie. Nessuno salverà quel che il tempo passerà. E ora siamo su cubiglie, non riusciamo più a capire che cosa stiamo cercando ancora, non lo sappiamo. I giorni passano e non siamo pronti a cambiare niente. È una corsa contro il tempo, è l'inizio della fine di un brutto sogno fatto tanto tempo fa. Le lanzamenti sono offuscate ormai da proiettile di storie senza verità. E ardiamoci di dignità, ma tutto finirà. Senza la rivolta, il domani non sorgerà. Un altro giorno è passato così oramai. Le strade sono vuote in questa deserta realtà. Siamo illusi che le speranze servano a cambiare le menzogne che ci